avait des yeux d'opale qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Ieri ci fu un profetico episodio che mi dette l'ispirazione per la trasmissione di questa mattina. Ve lo racconto oralmente per sommi capi, anche se chi mi segue su Facebook ne ha avuto immediata cronaca. Stavo sul far del mezzodì, dietro la finestra a doppio vetro antiproiettile del mio appartamento, gettando, come normale si faccia a mia età, uno sguardo di controllo nel territorio che circoscrive il mio sguardo. Vedo un pericoloso quanto importante incrocio di due strade, due arterie principali, l'una porta addirittura verso la Basilica di San Pietro e spesso è percorsa da pellegrini. A un certo punto il semaforo rosso passa una macchina a tutta velocità e incrocia e naturalmente va a creare un pericolosissimo incidente. Nel giro di pochi istanti tre o quattro macchine sono accavallate nei marciapiedi circostanti, hanno travalicato le linee di confine, qualcuna è entrata dentro giardinetti, un'apocalisse, improvvisamente un'apocalisse. Sembra di vedere il film dedicato alla profezia del calendario Maya del 2012. Tutte le macchine affastellate, arrivano immediatamente volanti la polizia, carabinieri, insomma, sotto casa mia era scoppiata l'apocalisse. A provocare tutto fu una macchinetta grigia, che rimase immobile anche se completamente distrutta, con il cofano partito, uno sportello divelto, una ruota gravolata dall'altra parte. Io dentro di me mi dissi, ma vuoi vedere che lì dentro c'è un umarello? E infatti poco dopo si aprì lo sportello, uscì un umarello in abito domenicale, aveva un vestitino grigio con la cravatta, un po' stordito esce, comincia a incamminarsi e se ne va e lascia tutto quel casino, e ho fatto in modo che rimanesse testimonianza iconografica di questa meravigliosa occasione. Mi si domanderà chi sono gli umarell. Gli umarell, secondo la definizione di un filosofo contemporaneo, Danilo Maso Masotti, sono quegli uomini di età indefinibile, potrebbero avere 5 anni, ma di media hanno oltre i 65-70 anni, che sono età pensionata, che non hanno nulla da fare, girano per le strade con le mani incrociate dietro la schiena, e guardano i lavori in corso, osservano, criticano e fanno delle operazioni tipo quella di passare con il rosso con la loro macchinetta. Questo mi ha fatto pensare questa mattina, forse è il caso di ricontrollare le norme di circolazione, visto che molti mi ascoltano in macchina, visto che l'automobile è uno dei luoghi in cui passiamo gran parte della nostra vita, visto che soprattutto dal 29 luglio 2010 è stata fatta una legge che contiene importanti norme di riscrittura del codice della strada, che parte sono già in vigore, parte entreranno in vigore a 60 giorni appunto, quindi a metà novembre circa. È il caso che parliamo di quelle che sono le nuove regole di guidare l'automobile. Era un ragazzo tranquillo, di buoni modi, poi però quando saliva in macchina era una furia, cominciava a imprecare in dialetto pugliese, andava, correva, non rispettava la precedenza, non neanche uno stop, era terribile, terribile. Con lei o colui che muta la propria andatura inerziale pur di sfavorire l'inserimento in corsia o in carreggiata di un'altra autovettura è gravemente malato. 800240024, questa mattina parliamo di norme della circolazione, parliamo di nuove regole, molte sono importanti, ma la cosa che mi ha sorpreso, ha sorpreso me stesso, che molti di noi che guidiamo tutti i giorni, che entriamo in automobile come se fosse in realtà la nostra prima casa, e la seconda casa è quella che ci ospita la sera stanchi, è quella che ci vede sonnecchiosi la mattina uscire dal portone, molti non sanno nemmeno che sono state sancite queste nuove regole, quindi questa mattina è il caso di essere informati. Esistono dei sistemi per fregare l'autovelox? L'H sulla targa o un CD dietro il parabrezza? Se io faccio una fotocopia di una targa e la metto sulla targa mia, da lontano difficilmente si può capire che quella è la fotocopia. In questa officina taroccate dei targhe per fregare l'autovelox? Le persone che per esempio devono fare un viaggio, io dico io stasera devo andare a Roma, mi serve praticamente coprire la targa perché vado di fretta, queste cose qua. Allora le persone vanno in un'officina che effettua questi lavori e si fanno truccare le targhe. Questa è una E e diventa F. La C si può trasformare in una G o addirittura in una O. Ma un lavoro di questo tipo quanto può costare? Potrebbe essere intorno ai 50-100 euro. Ma qual è il sistema più efficace per fregare l'autovelox? Lei quale consiglierebbe agli automobilisti? Ma guardi... 80024, vedete, i termini del problema sono subito definiti. È una lotta senza quartiere tra automobilista che vuole fregare le regole. Le regole servirebbero per mantenersi in salute, per salvarsi la vita, per provvedere anche dalla furia devastatrice dell'apocalisse degli Umarell, che sono, hanno macchine perfette, hanno macchine lucidissime, macchine che hanno una manutenzione esterna che le fa sembrare nuove, anche se sono un NSU Prince degli anni 70. Però in realtà sono totalmente inconsapevoli quando guidano. Passare con il rosso è uno degli optional più frequentati, ma anche parcheggiare sui marciapiedi, parcheggiare nelle rampe per gli handicappati, lasciare la macchina in seconda fila, fare le furbate, entrare nel centro, nella zona dei centri storici, a Roma ad esempio, entrando contromano per non passare sotto appunto il rilevatore di quelli che non hanno il permesso per la zona traffico limitato, e via dicendo. In questa lotta tra chi vuole fare il furbo, chi pensa di essere furbo, chi pensa che le regole sono scritte soltanto per gli ingenui, soltanto per i pensionati, soltanto per i cretini che le seguono, che la vera paraculata è guidare in maniera intrepida, in maniera del tutto disinteressata alle regole, beh, questa mattina proprio per capire quali siano le regole. 80024 0024. Buongiorno Nicoletti, volevo dire che gli automobilisti italiani sono i più indisciplinati e maleducati del mondo. Ciao Nicoletti, perché quando ad esempio prendiamo un mezzo pubblico e sbaglio calpestiamo i piedi di qualcuno che ci sta vicino, ci prostriamo in scuse amicamente di varia natura, e invece tra un'auto e un'auto, quindi a 2 mm di lamina di spessore, ci si manda a fanculo con una facilità incredibile. Questo è un problema che abbiamo già lambito, già abbiamo sfiorato. Quando indossiamo questa sorta di esoscheletro che è la nostra automobile, ci sentiamo forti, ci sentiamo invincibili, ci sentiamo tutti dei Mazinga Z, dei supereroi in diritto a compiere questa quotidiana battaglia tra gladiatori, che è sufficiente vedere un essere umano affacciarsi al finestrino di una macchina accanto, che tutte le frustrazioni che abbiamo accumulato la notte, la settimana precedente, il giorno precedente, che da quando siamo nati abbiamo dentro di noi, improvvisamente trovano un bersaglio. Enzo, buongiorno. Buongiorno a lei. Due cose. Io sono adesso che sto partendo da Bologna, che sto andando a Pesaro, sono su un'autostrada a tre corsie, che è l'autostrada che va al mare. Uh-huh. Il traffico non c'è e oggi c'è il limite dei 130 all'ora. Altro traffico lo si trova nei mesi di giugno-luglio, e il limite è sempre 130 all'ora. Oggi l'autostrada è quasi sgombra, in quei momenti è iperintasata. Credo che ci sia già qualcosa che non quadra. Cioè vorrebbe un limite di velocità variabile e stagionale? Ma difatti sarebbe la cosa più intelligente, perché oggi come oggi con l'elettronica si può fare qualsiasi cosa, ci sono tutti i cartelli e tutto, ok. Però, ma lei perché vuol correre di più? Perché le immagini, sì, sì, ho capito. 130 quando questa autostrada è iperintasata perché tutti vanno al mare, che follia può essere? Che, poi sì. Altra cosa della pubblica amministrazione, esistono giustamente, giustissimamente, i fotored che dicono se passi col rosso io ti sanziono, ed è giustissimo. Però io troverei giusto che su quei semafori la pubblica amministrazione mettesse un cartello dove dice il rosso, il giallo dura 3 secondi, 4 secondi, 5 secondi, e anche lì ci sarebbe la possibilità per l'utente di controllare e diventerebbe una cosa un po' sì, più. Sì, su questa dei semafori diciamo ci sono varie vertenze in corso, sono delle amministrazioni comunali. Io ricordo qualcosa del genere accadde nella mia città d'origine, a Perugia, che hanno semafori con il giallo praticamente che dura quanto un battito di ciglia, e questo rendo conto che porta importanti contributi alle casse del comune, ma in realtà rende impossibile a chi lo attraversa di prevedere questa cosa. Grazie Enzo, ma adesso cominciamo a introdurre l'ospite che ho in studio, silenzioso fino adesso, ma volevo lasciarvelo come sorpresa. Riccardo Alemanno, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno ascoltatori. Faccio sempre fatica a dirlo, perché io ho conosciuto Riccardo Alemanno, ma anche chi mi ascolta l'ha conosciuto come autore musicale, cantante, cantautore, mio complice di Fughe Domestiche, ma in realtà è direttore dell'Automobile Club di Roma, quindi nel suo ruolo di direttore questa mattina è Riccardo Alemanno. Riccardo, se volessimo riassumere in un concetto le novità di questo nuovo codice della strada, quale potrebbe essere? Beh, non è così semplice, perché è stata una riforma decisamente complessa, sostanzialmente una riscrittura. Possiamo dire un maggiore garantismo verso gli automobilisti, ma anche un inasprimento delle sanzioni. Quindi direi, ecco, se volessi sintetizzare, userei questa sintesi. Che chi sbaglia paga di più, diciamo. Chi sbaglia paga di più, ma gli accertamenti, le pubbliche amministrazioni sono comunque chiamate ad adottare delle regole più trasparenti. Ad esempio sugli autovelox, che abbiamo visto che è una delle attività più divertenti per passare il tempo nei tragitti in autostrada è quello dell'individuazione dell'autovelox. Il tonton lo individua, le mappe lo individuano. Adesso ci sono delle regole molto più precise. La sorpresa dell'autovelox dovrebbe essere un pochino più prevedibile. Sì, nel senso, anche in questo caso la nuova, più che il codice della strada, la legge che lo ha approvato, quella che hai citato tu, cioè del 29 luglio, la 120, ha stabilito che con un successivo decreto bisognerà comunque fissare la regola secondo cui l'autovelox deve essere posizionato con un certo anticipo rispetto a punti di rilevazione fissi. Cioè, non andiamo sul tecnico, ma comunque fa parte di quel garantismo di cui ti parlavo. Quindi anche il fatto che il TomTom lo indichi, tutto sommato, nello spirito della riforma, non è sbagliato, perché si sottolinea il valore preventivo dell'autovelox e non repressivo. Sì, non è una trappola che ti mettono per fregarti, cioè, tu sai che la velocità è controllata, quindi sta a te regolarti di conseguenza. Deve essere segnalato da cartelli, anche quando sono fatti con su autovetture, montati su autovetture mobili. In movimento, deve essere segnalato sull'autovettura a una certa distanza minima. Questo già era stato previsto. Visto dalla normativa. E poi, ecco, per esempio, si stabilisce che gli enti che ricevono, appunto, come dire, le contravvenzioni, competenti a installare gli autovelox, devono esserne anche proprietari, cioè non si può appaltare questo servizio. Quindi ti ripeto, c'è garantismo e come si costituiscono, diciamo, delle regole anche a carico delle pubbliche amministrazioni, per esempio anche sul reinvestimento delle somme riscosse a seguito di applicazione di sanzioni. Allora, mi scrive Marco su Facebook, dice: non serve a nulla fare nuovi codici della strada se poi la gente fa tutto tranne che guidare in auto e nessuno li punisce. Dice una cosa vera che vedo normalmente anch'io nel traffico romano: sono tutti al telefono in auto e i vigili se ne sbattono. In effetti è vero, il telefonare in automobile, soprattutto se sono signore a bordo di smart o sono signore a bordo di SUV, è una cosa molto normale, anche se poi ormai tutti i telefonini hanno il viva voce, gli auricolari Bluetooth costano 10 euro, eppure è come dire: io posso farlo. E anche se noi sappiamo bene che è quasi più pericoloso mandare un SMS, che invece non è vietato, no? Rispetto a parlare col telefono, nel senso, qua si tratta proprio di... Tant'è vero che noi dell'Automobile Club d'Italia sottolineiamo, diciamo, non usare per niente il telefonino. Lo so che ormai è quasi una privazione impossibile, ma come dicevi tu, la macchina è vissuta ormai come un'estensione della propria casa. Quindi ecco, da qui nasce l'individualismo, no? che noi viviamo. Vedere le altre macchine come... anzi, nemmeno vederle, perché il nostro ambiente climatizzato, con la musica che abbiamo deciso noi, ci fa vedere l'esterno quasi come se non esistesse. Tant'è vero che il nuovo codice della strada stabilisce delle altre regole che è vietato imbrattare le strade. Perché questo è interessante, ci sono delle norme proprio: è vietato buttare roba dal finestrino. Sì. Quindi il fazzolettino, la sigaretta provocherebbe una multa molto più salata. E questo da però 100 euro. Esatto, ed è un segno, questa disposizione è un segno anche da 100 a 400 euro. Se uno butta il fazzolettino da 100 a 400 euro. Sì, poi si applica ovviamente la sanzione ridotta, vabbè. Ci sono delle regole ulteriori, però ecco, questo è anche proprio il segno di quello che dicevi tu, cioè di non considerare la macchina come un luogo proprietario al di fuori dello spazio pubblico. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Lei è assurdo, dice, che qualcuno venga multato se la targa sporca. C'è una norma, il nuovo codice. No, non dico che è assurdo, dico che chi vuole correre ed evitare l'autovelox, se sporca la targa, non ha la targa rilevata dall'autovelox. Sì, ma infatti oggi viene sanzionato questo comportamento. Non si sì, può viene avere... sanzionato, però con 37 euro, mi sembra. Non so se sia cambiato con le nuove norme. Adesso lo cerco e glielo dico. però è assurdo. Un'altra cosa assurda è che l'autovelox debba essere segnalato, altrimenti se faccio ricorso non acquisisco il diritto di non pagare. Viaggiavo in Italia con un mio amico americano che trovava questa norma ridicola, no? Pronto? Sì, sì, la sto ascoltando. Riccardo Alemano, devi dire qualcosa? No, beh, certo, fa parte di uno spirito, di una norma che può essere anche discutibile. Tra l'altro, però. È veramente discutibile. Se mi avverti che mi fai la multa. Certo. No, io ti avverto, se in quella strada se vai forte tu paghi una multa e quindi tu devi andare piano. Sì, però se l'autovelox non è segnalato, si acquisisce il diritto di far ricorso. E questo per un americano era fuori dalla grazia del Signore, perché in America è il classico la macchina della polizia dietro un cespuglio, dietro un cartello pubblicitario che ti becca, che vai veloce e ti segue. Sì, si ha sempre il diritto. Segnalato, è ridicolo. Si ha sempre il diritto di fare ricorso, non si acquisisce in quel caso. Comunque, la riforma ha stabilito che non c'è più la sospensione della sanzione. Quindi il ricorso come mezzo per dilazionare i termini e non pagare non è più utilizzabile così facilmente. Claudio, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, sì, quando dico buongiorno, poi voi potete parlare. Perfetto, non lo sapevo. Vi do la parola. Io intanto ringrazio che mi sia stata data la possibilità di intervenire, perché questo di stamane per me è un tema caro. È un tema caro perché io percorro molti chilometri in macchina durante l'anno e per cui mi scontro spesso, mi imbatto spesso in disavventure da codice della strada. Allora volevo così mettere sul tavolo un paio di riflessioni. La prima, che la prima cosa che insegnano a chi studia diritto è che generalmente una norma non viene rispettata dai soggetti facenti parte di quella comunità a cui si rivolge questa norma, in quanto per chi non la rispetta è prevista una sanzione, ma perché i soggetti facenti parte di quella comunità la riconoscono come giusta. Ora, siccome tutti noi sappiamo che per esempio i limiti di velocità molto spesso non sono rispettati, nonostante siano previste multe salatissime per chi non li rispetta questi limiti, dicevo appunto, questi limiti non sono rispettati da molti e questo impone chiaramente una riflessione, e cioè quale? Che evidentemente molti automobilisti viaggiando a una velocità non da codice tipo 160 km/h in autostrada probabilmente non si sentono di pericolo né per se stessi né per gli altri. Sì, come il signore prima diceva, quando c'è poco traffico vorrei andare più di 130. Mi domando perché. Sì, ma anche perché noi oggi abbiamo automobili molto diverse da quelle di 20 anni fa. Abbiamo strade che in molti casi, infrastrutture, quindi strade, autostrade, strade statali, provinciali, urbane, che sono molto meglio attrezzate che 20 anni fa o 30 anni fa. E per cui questi limiti, ma ve lo dice un automobilista che percorre molti chilometri durante l'anno, sono sicuramente, per usare un aggettivo assolutamente rispettoso delle istituzioni, anacronistici. Se invece si volesse essere un po' più forti, si potrebbe dire che vengono conservate e previste non tanto per tutelare la sicurezza degli automobilisti, quanto invece per fare cassa. Guardi, io le garantisco che sulla 4 Milano-Venezia, che io percorro quasi tutti i giorni, quando capita di percorrerla quindi con l'autostrada con una buona percorribilità, magari con il sole incontro, le viene una sonnolenza a rispettare i codici che procura assolutamente. Sì, ma io guardi, io non sono molto d'accordo sul fatto che se lei va più veloce c'ha meno sonno. Se c'ha sonnolenza dovrebbe fermarsi e non andare più veloce. Questa cosa qua, nelle tante cose che si può dire su delle norme, dire che in realtà è anacronistica il limite di velocità, io trovo che è preferibile andare più piano e rischiare meno piuttosto che pigliare e andare a massima velocità perché la strada lo permette. Non vedo qual è il problema. Si citavano gli Stati Uniti e lì i limiti sono molto più bassi e le strade molto più ampie. Hanno delle strade deserte, gigantesche, le automobili che sono degli autotreni e vanno tutti a passo di lumaca. E se non rispettano il limite di velocità, la polizia li ferma, gli fa un mazzo che ma nemmeno ve lo immaginate. Non capisco che noi dobbiamo sempre scattare, essere a fare le corse. Iscrivetevi a un circuito di velocità e fatevi la domenica una scarrozzata a tutta velocità. Tutti a Valle Lunga. Quest'idea coatta che bisogna sempre correre. È il profondo animo coatto che contraddistingue la nostra stirpe, che fa sì che dobbiamo sempre andare veloci. Uno va alla velocità giusta, comunque arriva lo stesso. 800 24 0024. Lasciamo un attimo la linea alle informazioni della borsa, continuiamo perché vedo ci sono già molte telefonate. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Sotto al grande raccordo anulare, ragazzi. Sotto al grande raccordo anulare a 75 orari. 73. In curva, ragazzi. Adesso a destra il nostro colonnello Lorenzo girerà per la destra. Oh, abbiamo veramente rischiato di essere sia bloccati sia di finire in culo la luna fino a Bitinia. Esatto. Ragazzi, in salita 68. Mamma mia, ragazzi. Con la musica a palla. Questo è un momento epico ripreso da un videofonino e pubblicato su YouTube da alcuni ragazzini che hanno truccato la loro minicar. Sono felici, tronfi e orgogliosi del fatto che vada a 70 all'ora, cosa che non potrebbe. Riccardo Alemanno, direttore dell'Automobile Club di Roma. Rispetto alle minicar, a cui abbiamo dedicato l'anno scorso una succosa trasmissione, ci sono delle regole cambiate? I tuoi desiderata di allora di quella trasmissione sembra siano stati ascoltati, perché sono aumentate le sanzioni pecuniarie per coloro che fabbricano, producono, pongono in commercio ciclomotori minicar che appunto superino i 45 km all'ora. Quindi è stata regolamentata la macchinina di cui abbiamo tanto parlato. Regolamentata, sì. Questa corsa al potenziamento, anche all'accessorio taroccato, diventano vietati. Ci sono delle sanzioni anche per questi, per chi li produce e per chi l'installa. E poi anche nelle minicar bisogna utilizzare le cinture di sicurezza, cioè sono state stabilite almeno un minimo di equiparazione delle minicar alle macchine vere e proprie per quanto invece riguarda le prestazioni delle minicar in basso ai ciclomotori, cioè 45 km all'ora. Paola, buongiorno. Buongiorno a lei e grazie di questa opportunità. Senta, io ho sentito di straforo in radio che col nuovo codice è stato introdotto l'obbligo di soccorso agli animali feriti, un po' come si faceva per incidenti stradali con persone. Sì, volevo se lei vede un gatto spiaccicato deve tentare una respirazione bocca a bocca. No, beh, quella immagino che al limite si fa una marmellata un po' strana per i cannibali. Ma volevo sapere se vale su qualunque tipo di strada, perché le spiego, abito in campagna, però mi faccio anche 100 km di autostrada al giorno per andare e tornare da lavorare. Quindi sulla tua strada trovo cani prevalentemente e in campagna trovo caprioli e daini. Ecco, chi chiamare però in quel caso? Cosa si fa? L'obbligo di soccorso in È cosa una bella consiste? Domanda, perché guarda, io incrocio spesso volpi, sempre più spesso incrocio volpi, ma basta semplicemente... No, ma le volpi ormai sono come i gatti, ma basta andare in qualsiasi campagna, anche del Lazio, dell'Abruzzo, dove c'è dell'immondizia umana, dei rifiuti di cucina, ci sono volpi come una volta si trovavano i gatti. Sì, arrivano in città, poi con i cassonetti di organico ormai arrivano lì a mangiare. Sì, ma sono carini. Cinghiali... è epico, io ho passato l'estate sfamando un cinghiale dal balcone di casa. Cinghiale come... e prendere un cinghiale, devo dire, non è un bel impatto perché è un animale molto grosso. No, ci si distrugge abbastanza la macchina. No, si fa più male lei che il cinghiale. Se si trovasse Bambi con la zampettina fratturata per strada, è chiaro che chiunque lo vuole caricare. Non so bene adesso esattamente, Riccardo, tu hai qualcosa di più? Perché la domanda è veramente per pericolosa. Per quanto riguarda il cinghiale, c'è un mio caro amico che lavora in una società che possiede, un ente pubblico che possiede delle strade. Loro molto spesso, il loro ufficio legale si occupa di automobilisti che prendono i cinghiali e gli si distrugge la macchina e chiedono risarcimento danni. Quindi in effetti la fattispecie esiste. Nel caso della signora la norma non parla, che poi è l'articolo 189 del codice della strada 9 bis, non fa differenza tra tipo di strade ma circoscrive la fattispecie degli animali. Sì, perché una biscia uno la può anche lasciare lì, forse. Sono animali d'affezione, da reddito o protetti. Vabbè, quindi... se io avessi affezione per le bisce beh, se fosse probabilmente se fosse legittimamente detenuta una biscia, allora sarebbe un animale d'affezione. Allora, quindi cani e gatti, diciamo la verità. Cani e gatti. Cani e gatti, forse qualche coniglietto. Cani e gatti e forse l'alce, chi lo sa. L'alce, gli animali così. Allora, un animale d'affezione, certo, se uno vede un cane agonizzante, è chiaro che si ferma e cerca di far qualcosa. Poi il codice nuovo ha stabilito anche un'altra regola che è indicativa, cioè ha stabilito che anche le ambulanze che trasportano animali hanno diritto alla precedenza, quindi vedremo le ambulanze per il trasporto animali veterinario con le luci blu che corrono nel traffico per salvare l'animale, il cane e il gatto. Dentro c'è un gattino con la diarrea magari che va con la luce. Va bene, non vogliamo si potrebbe prestare da bus. Non vogliamo solamente mettere lingua sulle norme. Paolo. Buongiorno. Non dite buongiorno e state zitti, dite buongiorno e cominciate a parlare, che il tempo è tiranno. Sì, va bene. Io volevo riallacciarmi all'intervento che è stato fatto qualche minuto fa riguardo al fatto che negli Stati Uniti marciano a passo di lumaca. Primo, non è assolutamente vero, dipende dal tipo di strada. E seconda cosa, io viaggio molto in Italia, Svizzera e Germania, ho viaggiato molto anche negli Stati Uniti. E prima di andare negli Stati Uniti, per una mia prudenza, ho detto, invece che andare a guidare come un italiano, mi alleno in Italia a seguire il codice alla lettera. E mi sono spaventato, era quasi impossibile seguire il codice alla lettera in Italia. Negli Stati Uniti era facilissimo, il codice era più o meno uguale, ma le strade erano strutturate in maniera tale che venisse spontaneo. Vabbè, noi siamo fatti tutte, siamo un paese collinare, l'Italia, quindi c'è qualche difficoltà, non abbiamo grandi, eccetto certe latitudini, non abbiamo un terreno tale per avere delle strade lunghe, rettilinee, che si perdono a colpo d'occhio, quindi siamo fatti tutte curve tornanti, questo è questione del territorio, non c'è molto da fare, ma mi sorprende che ci sia sempre questa idea di dire che la norma è restrittiva quando ci fa andare piano, in realtà vorremmo correre tutti di più. Non, guardi, io non sono un amante del vivere lento, ma non capisco che il problema sia quello di correre di più. Comunque, a Riccardo. Io volevo parlare del caso del grande raccordo anulare, perché è emblematico nei confronti di questi discorsi che si fanno. È un'autostrada, sostanzialmente, ha un limite autostradale, ma circa un terzo degli incidenti dei feriti del Lazio avvengono lì. Perché? Perché con l'estensione di Roma come città, no, è diventato quasi una sorta di tangenziale urbana. E quindi lo scontro tra veicoli che passano a una velocità di 130 km all'ora e magari il motorino o i veicoli che invece lo utilizzano come raccordo urbano cittadino, evidenzia proprio che questa esigenza di correre è proprio legata a una forma di individualismo che nel grande raccordo anulare, come dire, proprio per la sua caratteristica, un'autostrada praticamente urbana, rende evidente tutte le sue contraddizioni. Quindi, ritorno al discorso inizio, c'è una percezione soggettiva dello spazio-tempo che tu stai percorrendo quando sei dentro la tua automobile. Per qualcuno quella è un'autostrada e hanno fretta e vanno veloce, per altri è la strada che li porta al lavoro e a casa e quindi vanno piano, ma è la stessa strada con le stesse regole, con gli stessi mezzi, dovrebbe essere uguale per tutti, certo. Non la percezione individuale, perché allora sei incazzato la mattina e quindi non guardi i segnali, non guardi i limiti, sei allegro quindi canti, telefoni, mandi sms perché sei innamorato e c'hai dei problemi. Dovrebbe esserci una sorta di comune percezione dello spazio, del tempo, di quando si guida. Infatti permettimi di fare un po' il direttore dell'Automobile Club, ma noi proprio ad ottobre sensibilizzeremo Roma, un'iniziativa che chiameremo Moto Rifletti, che è destinata ai motocicli ma anche alla convivenza tra autovetture e motocicli, che qui a Roma è molto difficile. E anche ti ricordo che il nuovo codice della strada finalmente stabilisce quello che le autoscuole Ready to Go dell'ACI già pongono in essere, cioè il fatto che ormai anche la scuola guida, perché è dall'inizio che bisogna educare la strada, prevedono anche la guida in autostrada, la guida notturna, la guida in galleria, cioè delle guide estreme che il neopatentato non è formato per poter affrontare. E poi c'è da dire che cambia molto la qualità del traffico, ad esempio i giorni festivi. I guidatori della domenica hanno sempre guidato tra garage, ufficio, garage, supermercato. Quando li piazzi in un'autostrada, in realtà qualche problema lo danno. Giuseppe. Sì, buongiorno. Agente di polizia stradale. Esatto, quindi... esatto. Io mi sono sentito lunga. Un po' in causa. Ho voluto subito chiamare. Io sono un assistente capo della polizia stradale. Dotato anche di cane. Come, scusi? Cane da riporto, cioè. No. Io mi sono preso in causa perché, diciamo, in tutti questi anni che ho svolto questa attività quasi esclusivamente in autostrada, mi sono fatto un po' un'idea di quello che è il problema in Italia della circolazione stradale. Ce lo spieghi che ce l'ho. Guardi, secondo me va affrontato su più problematiche. In primis c'è la mancanza di una cultura dell'automobilista, cioè l'italiano che si mette al volante di un'automobile non è consapevole di quello che fa e di quello che ha in mano, nel senso che non cioè la scuola guida che ha frequentato non gli ha insegnato a guidare una macchina, ma gli ha semplicemente insegnato a prendere la patente. Quindi non conosce, per dire, la differenza tra un'autostrada e una extraurbana principale, non sa quali sono le regole principalmente da seguire per esempio in autostrada, la, come dire, la consapevolezza di certezza che la corsia di destra, come dice l'articolo 143, non è quella dei camion, cioè non è scritto da nessuna parte che quella corsia deve essere impegnata esclusivamente dai mezzi pesanti. Questo succede quando c'è tanto traffico, è normale che i mezzi pesanti stanno su quella di destra, ma in casi come per dire la domenica mattina che l'autostrada è completamente libera, quella corsia là deve essere utilizzata anche dall'automobile. Invece vanno tutti in corsia di sorpasso. E invece vanno tutti o in corsia centrale o in corsia di sorpasso, quindi noi ci ritroviamo un'autostrada a tre corsie che alla fine sbilanciata è a due, perché praticamente la prima non viene mai utilizzata. Questo perché per quella dicono che è quella dei vecchi, delle famiglie, degli umarelli. Esatto, questa un po' è una concezione che hanno un po' tutti gli italiani, ma è completamente sbagliata, quindi questo è uno dei problemi principali. Il secondo che non c'è la certezza di essere puniti per quello che si fa. Noi siamo in pochi, questo lo dico subito come polizia stradale, riusciamo a fare poche pattuglie. La certezza che una persona commettendo un'infrazione al codice di strada venga punito è relativamente bassa. Senta una cosa, mi piacerebbe sapere proprio dalla sua esperienza, qual è la scusa, la cazzata più grossa che le viene raccontata quando lei ferma una persona in fragranza di infrazione? Guardi, io ne ho sentite, potrei scrivere un libro, una mia collega l'ha anche già fatto. Ne dica qualcuno. Esatto, guardi, io ne posso raccontare una che è stata emblematica. Noi a volte facevamo dei servizi mirati alla repressione di quell'atteggiamento automobilistico che è esclusivo degli italiani, di avvisare con un lampeggio degli abbaglianti la presenza di una pattuglia della polizia. Un'altra attività coatta, come se fossero tutti una grande organizzazione mafiosa. Questa sorta di altruismo automobilistico che poi alla fine lascia il tempo che trova, perché se tutti seguissero le regole non ce ne sarebbe bisogno. Comunque guardi, noi quindi coadiuvati da un'altra pattuglia facevamo questo tipo di servizio. E una cioè segavate chi lampeggiava praticamente. Esatto, segnalando la pattuglia che era dall'altra parte. Una delle scuse più emblematiche è stata quella di un automobilista che è fermato e dopo che gli è stato contestato questo verbale, l'articolo 155, l'uso inappropriato degli abbaglianti, aveva appunto addotto questa scusa che lui si era tagliato un dito cucinando e aveva dei riflessi inconsulti su questo dito e quindi automaticamente azionava gli abbaglianti inconsapevolmente e non riusciva a farne a meno. Aveva il dito vibrante, è una patologia da schiena. Altrimenti un'altra molto emblematica, un automobilista pizzicato col telelaser a più di 140 all'ora su una strada extraurbana principale limitata a 90, quindi andava comunque in un 142,9, quindi superava di oltre 40 km/h. Praticamente mi ha semplicemente detto: guardi, io sono appena uscito dall'autolavaggio, sto asciugando la macchina. Quindi andava velocemente. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ma papà, di qui non si può. Ma che ti importa se è direzione di tardi? C'è la guardia? No, e allora? Fagli le corna, fagli le corna quel disgraziato. Vedi Paoletto, tu sei buono, intelligente e anche bellino, ma furbo non lo sei. Adesso ti dico una cosa: il mondo è tondo e chi non sa stare a galla va a fondo. Hai capito bene? Ricordalo. Questo era uno stralcio dai mostri in cui Ugo Tognazzi fa la sua educazione stradale al figlio, che poi male gliene incorrerà alla fine. Questo per dimostrare che esiste un humus esistenziale nel quale attecchisce ogni nostra convinzione quando siamo al volante, che ci è stato anche in parte spiegato dalla gente della stradale, che ci ha parlato della sindrome del dito tremolante, di colui che con gli abbaglianti segnalava la pattuglia ai suoi colleghi automobilistici, ritrovando una solidarietà che non c'è mai. Ci si odia sempre, homo homini lupus, quando si sta al volante, però quando ci si incrocia che c'è una pattuglia è bello fare i segni con gli abbaglianti, ci sente amici, buoni, fratelli, colleghi di sventura in una giungla fatta di guardie e di ladri. Vincenzo. Sì, buongiorno. Senta, le faccio una premessa, io sono un ex pilota e sono un automobilista rispettoso degli altri, uno di quelli che si ferma sempre, fa passare tutti. Detto questo, io le regole non le rispetto per un motivo semplice. perché sono tante, assurde, e soprattutto perché servono a far cassa, perché la storia della prevenzione è un'invenzione. Le faccio un esempio: e i limiti di velocità, basterebbe inserire un limitatore sulle automobili e non si spenderebbero centinaia di milioni in autovelox, in pattuglie che devono controllare. È una cosa che sento dire spesso questa, ma tante volte me lo domando anch'io, perché si fanno macchine così veloci, così pompate, quando vanno a ledere interessi troppo grandi. Infatti, io ho una macchina che è, se non sto attento, mi ritrovo a 160 all'ora senza accorgermene, mi sembra di andare a 80. Sì, il telefonino, perché non inventiamo un sistema che in macchina non lo fa funzionare? Perché la pericolosità non sta nel stare al telefono, sta nel fare il numero, nel mandare il messaggio. È lì che ti distrai, non è quando parli. E questi, tutti questi vigili che sembrano loro i ladri, si nascondono per farti la multa, dov'è la prevenzione? Dove sta la prevenzione? Perché non facciamo delle regole? Oddio, che guardi, scusi Vincenzo, Vincenzo, che scrivo un sms mentre si guida, si rischia la vita propria degli altri, lo sappiamo tutti, e non rinunciamo a farlo. Io non voglio fare il buono o la vergine vestale, capita ogni tanto di avere fretta, che non si può fare a meno di mandare quel messaggio. Siamo consapevoli del margine di rischio che stiamo affrontando, però molto spesso questo è funesto e deleterio. Non credo che possa esistere una teorizzazione che ci impedisca di fare questo, se non una coscienza individuale. Forse però ha ragione lei, ci fosse un sistema che rende inattivi i telefonini in macchina, poi comincerebbero le eccezioni. Allora tutti quelli che fanno un certo lavoro vorrebbero l'esenzione, i giornalisti sarebbero i primi, sono giornalista, mi serve il telefonino che funzioni, poi tutti gli amici dei politici, poi tutti i portaborse, poi tutti i medici, poi tutti gli infermieri, poi tutte le escort, è il loro lavoro stare al telefono, cosa fa? Quindi rimarrebbero tre o quattro umarell poverini con il telefono isolato. Enrico. Buongiorno Nicoletti, ecco, dopo avere, io vorrei rispettare le regole, perché insomma vivo a Milano, in centro a Milano, porto i bambini a scuola, però dopo, praticamente, dopo aver preso una serie di multe, di sanzioni, mi erano stati giustamente, come decurtati, tantissimi punti. Quindi ho deciso di, da quel giorno, che sono tre o quattro anni fa, di rispettare assolutamente le regole di tutto quanto, per far sì che poi i punti mi venissero riaccreditati, visto che lavoro in macchina. Ecco, insomma, morale della favola: andando in giro sia in centro a Milano che in periferia, se rispettavo le regole, andavo a 50 quando c'era da andare a 50, a 70, beh, io venivo subissato da corna, fischi, clacsonate, cioè, sì, capita, ma non ci dovrebbe fare grande, e lo so, fa parte della risposta. Ho dovuto mettere un cartello con scritto: abbiate pietà, mi sono rimasti tre punti e non posso andare più. Ah, l'aveva scritto, perché... sì, sì, e si impietosiva la gente. Magari passavano accanto, vedevo che ridacchiavano, però mi clacsonavano lo stesso. E mi è toccato mettere un cartello. Poi ho detto, così almeno, tipo quelli che hanno la P di principiante o quelli che hanno lo stemmino delle disabilità. Quindi lei si giustificava e chiedeva scusa del fatto che lei seguisse le regole. Riccardo Alemanno, scusi, direttore dell'Automobile Club di Roma. Ma è simpaticissimo, magari ci può mandare il JPEG di questa immagine. No, diciamo comunque che il codice stabilisce, per quanto riguarda il fare cassa, vi rimando all'articolo 42, ci sono regole più strette per quanto riguarda i proventi. E niente, poi ricordarsi a tutti che la macchina non è la casa, e quindi in casa ci si rilassa e in macchina si sta attenti. E questa mattina abbiamo cercato semplicemente, non dico di illustrarvi delle regole, ma di farvi capire che le regole esistono. Però vedo che alla fine, se dovessi tirare una somma di questa trasmissione, ogni automobilista si sente in diritto di riscrivere il proprio codice della strada, personalizzato sulle sue esigenze e sui suoi piaceri. A domani. Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.